siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Allora fatemi vedere Oscar Giannino, siamo separati e la telecamera è spenta, non vuole più farmi vedere come è vestito, però io posso dirvi che il gattone è lì. Dai, descrivi, sei nudo, sei in canotta, hai nudo, una... No, secondo me cantava senza capire quello che stava dicendo. No, perché insomma, quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa chiamare un uomo? Non lo so io. Ieri al Ministero dello Sviluppo Economico si è vissuta una giornata piuttosto surreale. Quindi sono stato italiano, come sempre, scrive una cosa, ma la sua parola vale meno di niente. È stata un'esperienza alle 6:30 di mattina, questa, per dire che canta Bob Dylan, diciamo, forte. Buongiorno. Aspetti un attimino che... L'attimino. Il governo prenda il coraggio, se vuole davvero portarla avanti, la porti in Senato, dopodiché ci sarà una democratica discussione con voti di emendamenti e si vedrà che cosa esce. Chi invoca linee ancora più dure mi lascia senza parole, perché evidentemente la storia è proprio destinata a ripetersi. Vorremmo chiedere un referendum. Ci devono essere solo in Italia due partiti, uno che governa e uno che sta all'opposizione. Noi abbiamo questa brutta abitudine in questo programma, sentiamo tutti. È una cosa incredibile questo paese, no? Come ha due pesi e due misure, feroce con persone che sono in disagio e molto tollerante con chi si fa la casetta nel mare. Ecco, l'Italia è un eterno paese di domande senza risposte, è per questo che non sappiamo dove va. Reach out and touch faith. Buongiorno popolo di Giasvegli, buongiorno, siamo in guerra, in una guerra europea che incombe ma rimane sospesa per un miracolo. La dichiarazione di indipendenza della Catalogna è stata fatta ma a metà, fatta ma sospesa. Ma come sono italiani questi spagnoli, sempre a dire voi italiani, loro hanno fatto una roba che non si è mai vista. Allora oggi tante cose da discutere, al telefono con noi ci sarà Marco Cappato che ha appena scritto una biografia, un libro, un saggio, non so come definirlo esattamente, lo scopriremo da lui. Buongiorno Cappato, è in linea? Buongiorno Luca, buongiorno gli ascoltatori. Allora, cos'è questo libro? Un radicale che scrive un pamphlet o un racconto di sé? Beh, sono partito dalla storia mia, di alcune cose che ho fatto nella mia vita, soprattutto di azioni di disobbedienza civile, sull'eutanasia, aiutando persone a ottenere l'interruzione della propria sofferenza, della propria vita, ma anche sulle droghe, sulle nuove tecnologie, su... Titolo, come dire, emblematico, Credere, disobbedire, combattere, pubblicato da Rizzoli. Allora, lo scopriremo fra poco, ma entriamo subito dentro il fritto misto. Signor Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo pongo la questione di fiducia sull'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 delle proposte di legge recante modifiche al 1, 2 e 3. Era Anna Finocchiaro che annuncia la fiducia sulla legge elettorale, ormai trasformata nella madre di tutte le battaglie. 1, 2 e 3. Saranno tre voti e un solo voto segreto anziché i 90 che il Parlamento e il regolamento del Parlamento prevedevano. Mica male, no? Sentite Di Battista furioso sulla legge elettorale, poi racconteremo l'epopea della sua irruzione a Piazza Montecitorio. Che deve fare il popolo italiano se viene costantemente privato dei diritti? Che deve fare se non venire qua? Cioè, ma si è mai vista sta roba? Questo è un Parlamento eletto con il porcellum incostituzionale, che ha prodotto una legge, l'Italicum incostituzionale, Mattarella l'ha firmata. E chi era il relatore dell'Italicum? Fiano. E oggi chi è il relatore di questa ennesima porcata? Fiano. Qua il discorso che due terzi dei parlamentari verranno scelti da partiti politici, ma è accettabile. Se ci sono leggi di merda qua dentro è perché i politici rispondono ai partiti, non rispondono ai cittadini. Ah, diafono, furioso, furibondo e con la voce spezzata dall'indignazione per una legge che è fatta anche per fregare il Movimento 5 Stelle. Ma sentite Mastella che replica Grillo sul Rosatellum. Grillo mi accusa dicendo si fa una legge che crea un vantaggio a Mastella, che potrebbe candidare il figlio, però non mette conto e non spiega agli italiani che Casaleggio padre o a Casaleggio padre è successo Casaleggio figlio. Da me ci sono le elezioni, quindi eventualmente votano i cittadini, a lui invece in maniera non democratica c'è la successione in via diretta ereditaria. Alla Casaleggio c'è una dinastia, dice Clemente. Ma andiamo lì, il couscous fa schifo. Centinaio, il senatore leghista, favorevoli allo Rosatellum bis, ma molto seccato per le diete etniche. Piuttosto che mangiare il couscous faccio davvero lo sciopero della fame insieme ad Enrico. Io sia la polenta o il couscous. Io sono lombardo e di conseguenza il couscous no, ma non sentite lo mangio. Sullo sfondo la russa dice: ma guardi che il couscous lo fanno anche a Trapani. E poi Puigdemont e il famoso discorso di cui parlavamo prima, con l'indipendenza a metà condivisa. Arrivati in aquest moment històric i come presidente della Generalitat assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Uno stato indipendente in forma di repubblica, due calci nel sedere, uno alla Spagna e uno alla monarchia. Ma i catalani sono così, scopriremo che cosa sta accadendo. Ma la perla del giorno è Battisti. Non stava fuggendo, stava andando a comprare il vino. Esa cosa que yo estaba fugiendo no está de pie. Yo posso salir de ese país cuando y como quiero. Evo Morales. Ma yo no conozco a Evo Morales, no conozco a ninguém en Bolivia. Estaba fugiendo de qué? El único país donde estoy protegido es aquí. In brasiliano, ovviamente, il terrorista latitante da tanti anni, residente in Brasile, fermato al confine, e niente, abbiamo deciso di andare in Bolivia per comprare il vino e materiale da pesca. Dall'altra parte costa meno e tutto più economico, e quindi era più conveniente. Buongiorno e chiudiamo questa mitragliata di fritto misto con Predolin, tornato eroe, rivendica il suo essere uomo e italiano. Ti faccio una domanda, sì. Ma sii sincero, ti danno fastidio vedere anche due donne che si baciano? Sono un uomo, due donne che mi baciano, no, non gli sono affari fastidio. Loro. Aspetta, aspetta. Non sei sessista. No, aspetta. O tu sei il classico allora, uomo. Allora, Eva, io, hai detto bene, sono il classico uomo. Allora e non mi vergogno uomo. Di essere il classico uomo. Va bene, perché sono stufo di questa cosa. Io sono il classico uomo e sono fiero di essere il classico uomo. Per me non è un'offesa, sarà un'offesa per lui. Io sono... E questa è una perla, un dialogo con Eva Grimaldi, torna sulla sua scalifica al Grande Fratello e grida: sono il classico uomo, se vedo due uomini con la barba e si baciano, rido. E allora torno subito a Marco Cappato, il costume passa anche per il Grande Fratello? La considerazione, lei è un classico uomo, Cappato? Non sicuramente, non nel senso inteso da Predolin, però il costume ovviamente passa per i fatti della società, per cui perché non per il Grande Fratello, certo, anche per quello. Allora, dicevamo di queste notizie del giorno, qual è la cosa che l'ha colpita di più, che già conosceva o che pure ha sentito in questo riassunto imperfetto di una giornata? Ma la cosa più di conseguenze, come dire, anche potenzialmente molto gravi per tutti, la questione più seria è quella della Catalogna, certamente. Mi ha colpito e mi ha fatto un po' sorridere la grande emozione di Battista, perché c'è un sistema elettorale che consente di fare scegliere i parlamentari dai cittadini, non dai partiti, ed è quello all'americana dove si scelgono i rappresentanti di un collegio. Il problema è che nessuno, e nemmeno il Movimento 5 Stelle, lo ha mai difeso e proposto questo sistema in Parlamento, pur avendo vinto in passato un referendum nostro radicale. Quindi mi stupisce gridare così allo scandalo per un sistema dal quale ormai si fa totalmente parte e si beneficia, come fa il Movimento 5 Stelle. Però lo avete fatto per tanti anni. Allora sentiamo un altro frammento dell'invettiva di Dibba. Mi sentite? Uno, grazie, siete tanti, grazie. Non so chi l'ha convocata, comunque grazie. Qua non è Movimento. Ecco, questo era il discorso che lui ha pronunciato col megafono a Piazza Montecitorio. Aveva sbagliato piazza, cioè pensava che ci fossero i grillini convocati nottetempo, e invece c'erano Forconi, c'erano altri, c'era il generale Pappalardo, che a me mi fa sognare, e quindi è rimasto per una volta, diciamo, senza un popolo da ringare. È mai successo, Cappato, una cosa di questo tipo? No, per sbaglio no, mi è successo volontariamente. Volendo, allora lei se la cerca, cioè che è successo? Ma alla Roma Gay Pride del 2000 c'erano decine di migliaia di persone al Circo Massimo, appena ho iniziato a parlare sono stato subissato di fischi e di improperi, perché allora... Ma che aveva detto? No, niente, non avevo ancora cominciato. Allora però si accusavano i radicali di essere traditori del grande e radioso futuro della sinistra. Allora lì veramente in effetti mi sono arrabbiato e gli ho spiegato come la mosca comunista fosse stato uno dei luoghi dove noi eravamo andati a manifestare ed eravamo stati arrestati, radicali, negli anni 70 proprio per la persecuzione degli omosessuali, cosa che poi mi è capitata ancora nel 2007, l'ho raccontata appunto nel libro, perché nella Russia di Putin si continua a non poter manifestare per il Gay Pride. Non ditelo a Predolin, ma insomma è così ancora. Non diciamolo a Predolin. Senta, ma le volevo chiedere, questo libro racconta anche la vicenda seria della disobbedienza civile, dell'accompagnamento di persone a morire. Come, a che punto è la sua storia processuale? L'8 novembre c'è un processo nei miei confronti, la Corte d'Assise di Milano. Quanto rischia? Da 5 a 12 anni per aiuto al suicidio. Questo è il reato del 1930, il codice del fascismo, e dovremmo provare a sostenere come invece la Costituzione, che è di 18 anni più tardi, consenta dei diritti e delle libertà fondamentali che vanno riconosciute in particolare a malati terminali che chiedono di interrompere le sofferenze. Ecco, nel libro lei pubblica le lettere di tutti coloro che chiedono di essere aiutati a morire. Come si fa a scegliere chi aiutare e chi no? Ma intanto la decisione finale per chi va in Svizzera non è la mia, ci sono dei medici che fanno le valutazioni, io fornisco delle informazioni, e poi nel caso per esempio di Fabo, di Dominique Velati, naturalmente conosco queste persone, mi sono accertato delle loro intenzioni, cosa che però poi dopo autonomamente e sulla base della legge svizzera i centri e le organizzazioni che lì sono fanno tutte le loro verifiche. Allora, strada in diretta, e torniamo subito dopo con il popolo dei già svegli. Facciamo una vertente sindacale, è immorale alzarsi a questo. Mattino. I già svegli. Caro Luca, allora, la vecchina lì che è stata sfrattata di 95 anni ha sbagliato a rivolgersi al Presidente della Repubblica Italiana. Doveva rivolgersi alla Merkel, ma qui non capire proprio niente. Ciao, datti da fare. Pronto, sono sveglio perché non essendo un politico devo lavorare. E dato che credo all'assioma che chi dorme non prende pesci, agisco di conseguenza. Sono Gervilia perché devo accudire tre gatti. E io non so perché, quando maltrattano gli animali, gatti, cani, non si sente mai che nessuno o va in galera o paga delle multe. Ciao caro, ti sento ogni mattina. Ciao ciao. Beh, io mi sveglio presto perché superata una certa età non riesce a, non riesce a fare altrimenti, caro. Sono sveglio così presto come tutte le mattine, perché anche questa mattina avrò una lunga fila di bambini di un mese di vita, ai quali farò un elettrocardiogramma per lo studio del cutilungo. Buona giornata. Che bella immagine, la fila dei bambini, che bella, è la vita, è il trionfo della vita, è il trionfo dei già svegli. Cappato, lei a che ora si sveglia la mattina? Voi radicali non dormite mai di solito, fate dei sit-in, raccogliete delle firme anche di notte. Si svegli a ore anche molto diverse, io mi sveglio verso le 7:30, ma a volte anche più presto o anche più tardi. Allora, il primo capitolo del suo libro ha un grande fascino perché è la prima cella, non si scorda mai. Quale in questo caso? Ma questa era stata a Manchester, sulla una disobbedienza civile sulla cannabis. C'era un cannabis club di malati che la utilizzavano a fini terapeutici, che erano stati arrestati. Io ero parlamentare europeo, ero andato là e ho ripetuto il loro gesto e sono stato arrestato anch'io. Allora, 349-238-6666 per i vostri messaggi, 800-24-0024, com'era per telefonare più tardi, casomai voleste, e poi la segreteria telefonica per i vostri messaggi per contribuire alla storia di Già Svegli al 02-30-22-4492. Un saluto anche alla signora dei Gatti, ovviamente. E com'era questa cella? Era confortevole rispetto poi alle altre frequentazioni? Com'era? No, assolutamente, era molto, era un posto di, come dire, di polizia, quindi c'erano gli ubriaconi della ronda notturna, era proprio gente che gridava, batteva i pugni. No, non è stata particolarmente piacevole, né un fisso per evitare che succedesse qualcosa di strano, quindi particolarmente disagiata, diciamo. E invece cos'è questa storia dell'orecchino? Raccontiamo? Sì. No, ai tempi portavo l'orecchino che mi era stato chiesto di togliere all'ingresso, poi all'uscita, quando mi hanno ridato i miei effetti personali, l'orecchino non c'era più. Ah, l'orecchino col brillantino, regalo della zia Donatella. Esatto. E da allora ha smesso di portarlo? O... Sì, a quel punto ci ho rinunciato. Era proprio chic, eh? E altre battaglie memorabili da ricordare per sempre? Beh, allora, ho inserito una disobbedienza civile alla quale poi lo Stato italiano ha fatto finta di non vedere, una esportazione di embrioni in Svezia per la ricerca scientifica, perché in Italia continua a esserci questa legge in vigore per cui gli embrioni che sono avanzati dalla fecondazione assistita, di gente che poi non impianta quegli embrioni, la legge prescrive che non possano essere utilizzati per la ricerca scientifica e così devono essere buttati via, di fatto devono essere distrutti. E quindi esportazione clandestina. Esatto, di embrioni, un reato anche, bello, anche grave, che però... Quanti anni di carcere si rischia? Ma questo mi pare sia fino a 3, insomma, ah, meno bello, grave. Cioè, per un radicale... Anche con una multa molto, molto pesante. Ma quanto qui... spendi di avvocati, Cappato? E qua ho tutte queste disobbedienze civili, un embrione qua, un accompagnamento al suicidio di là, non è facile la vita. Beh, molti sono militanti e quindi appassionati e volontari. Ah, bene, bene. Senta, le faccio sentire una voce che riconoscerà subito. Penso un po' che io sto raccontando una cazzata alla gente, anche a te. Io non sto bevendo da 2 giorni. Vedi che faccio ciò? Mi sono fatto truccare le labbra. Non ho saliva, parlo impastato, perché io prendo per il culo gli italiani. Dico che digiuno e invece no! Era il Pannella, il Marco Pannella più satirico, che scherzava paradossalmente per promuovere il suo sciopero della sete. Ne parlava con Andreotti. Vero? Sì, era una tribuna elettorale con Andreotti e l'immagine meravigliosa è che Pannella scherza, ironizza, lo incalza, lo prende in giro e Andreotti è Immobile. Immobile, neanche una parola. Chi vinse quel confronto? Beh, direi che così da telespettatore direi Pannella. Poi il tanto potere nella storia è stato certamente di Andreotti, però Pannella ha cambiato molte cose che la gente si ricorda più di quello che hanno fatto persone con molto potere. Dicessimo, chiedessimo agli italiani: vi ricordate che cosa ha fatto per positivo e negativo di cambiamento della vita della gente Andreotti? Credo che sarebbe più difficile, con Pannella sarebbe più facile. È il potere, in questo caso, della non violenza. Ecco, le volevo chiedere, da esperto di digiuni radicali, satyagraha, importati proprio da Pannella, che cosa pensa del digiuno a rotazione dei 90 parlamentari che hanno fatto un digiuno un giorno a testa per lo Ius Soli? Ma tutto sommato, ecco, non penso che chi ha fatto questo intendesse paragonarsi o paragonare a epopee molto più costose e molto più faticose. Allo stesso tempo lo trovo sempre un gesto preferibile a trafficare nei corridoi del palazzo magari per qualche piccolo ricatto. È un digiuno, è un segnale di dialogo, ecco, in questo caso. Qual è la prima cosa che si impara nel digiuno? Allora, con Pannella il metodo che si scelse da subito fu quello comunque di prendere 3 bevande zuccherate al giorno per continuare comunque a essere attivi di testa. E quindi se no si crolla. Bene, il tempo incalza. Grazie a Marco Cappato. Comprate il suo libro, che è sicuramente, comunque la si pensi, un libro di impegno civile. Credere, disobbedire, combattere Rizzoli, come liberarci dalle proibizioni per migliorare la nostra vita. Giornale Radio, e torniamo subito dopo. Paleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.